Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli, da Pietro Laccorte in regia. Oltre 12 milioni di euro per trovare i geni del dolore, per applicare le nanotecnologie alla chirurgia del più grave dei tumori cerebrali, glioblastoma, e per sviluppare la conoscenza delle epilessie e della loro genetica. Questo è l'importo e la destinazione del finanziamento pluriennale che l'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano riceve dall'Unione Europea per due nuovi progetti di ricerca di cui è coordinatore e di un terzo di cui è co-coordinatore. Allora ne abbiamo parlato con il direttore scientifico della Fondazione Besta, il professor Ferdinando Corneglio. Diciamo che l'Europa ha accettato la proposta di un piano operativo per 5 anni che investe circa 10 milioni di euro. Deve considerare che saranno 9 i centri europei coinvolti in questo studio. Questi progetti sono completamente a carico del finanziamento europeo. Quindi di fatto noi trarremo vantaggio da questi finanziamenti, trarremo poi dei vantaggi che noi speriamo siano consistenti sul piano operativo, perché noi questi finanziamenti e questi progetti sono altamente traslazionali, cioè non sono progetti genericamente di conoscenza, ma sono dei progetti che devono sortire poi un meccanismo operativo da applicare poi al Servizio Sanitario Nazionale. Ecco, dottor Corneglio, ovviamente non si fa altro che parlare anche a livello europeo di tagli al budget, di difficoltà economiche. Come ci si assicura il finanziamento di questo livello? E ci si assicura con la qualità. Capisci? Noi abbiamo messo 3 anni per presentare questi progetti. Questi progetti devono essere presentati a una commissione con la qualità della proposta, la super qualità del proponente, un ente che è in grado di dimostrare di essere in grado di fare i progetti. La Commissione europea ci mette molto tempo ed è estremamente severa nella valutazione di tutti questi aspetti. Dopodiché esiste tutto un criterio a cui c'è l'assegnazione della definitiva del progetto con tutti i legami anche con i risultati. Ecco professore, e qui siamo davvero alla fine, proprio 3 giorni fa abbiamo avuto ospite il commissario europeo Joachim Hahn, austriaco. Tra le sue responsabilità quello, diciamo, del pacchetto di gestione complessivo dei cosiddetti fondi di coesione. Lui ha detto: purtroppo in Italia continuano a esserci delle zone d'eccellenza, lo ha ribadito, ma delle zone d'ombra terrificanti in cui l'incapacità di attingere. Chiaramente questo non riguarda voi, però prego. Le assicuro che è un must non indifferente quello di partecipare a questi progetti, ma è anche un impegno veramente importante. L'importante è che il proponente abbia una chiara qualificazione scientifica veramente di livello dimostrabilissimo e non semplicemente dichiarazioni generali, e che sappia dimostrare poi che è in grado di fare delle cose e di portarle a termine. Se noi non ci abituiamo a non essere solo chiacchieroni, ma a essere veramente professionali anche nel partecipare a queste call, credo che sarà una lezione per tutti. Ecco. Grazie dunque al professor Corneglio e buon lavoro naturalmente al BEST e a tutti i ricercatori. L'appuntamento con l'Europa è per lunedì, naturalmente a partire dalle 13:10. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.